T'aggia fa una masciata, Filumè, vieni a ca, vieni a ca, bietto non me la pozze chi utne, come va, come va, perché lo se te fai meno amore, vuoi sentì. La mamma da strillare non te può, non fui. Non poca la manella vuoi posare, bietta a me. Come zompa sto cuore che hai là, vuoi vedere. Ma nasto chi è na fuoco, lasciami, non sciuscià. A bruciata per te voglio morire, non sto da. Lo vide dallo pietro va a scappare, tu lo vuoi, chi senza te non possa riposare, non di no. T'ha già fa una masciata, Filumè, vieni a ca, Filumè. Vieni a ca, Filumè.